Sì. Ok, avanti. E beh, roba è. E beh, tu, fai se combinare. Mi ha appena rientrato a fare la spesa. No, io adesso acceso, te ci avrei spesa anche tu, ma sempre di meno, tutti butti. Ehi, roba, la gente se ne va al mare, a casa c'è caldo, capito? Adesso il picco arriva da venerdì e sabato, anche domenica, poi lunedì, un po' di meno, però c'è sempre caldo. E domenica, il picco è domenica, 39 gradi all'ombra, ci sono fatti un conto, c'è il vento da libeccio. Mamma tua, domenica questo? Sabato e domenica, il picco è proprio più alta temperatura la fa domenica, poi lunedì si abbassa di 7-8 gradi la temperatura, però c'è sempre caldo, 29 gradi, domenica 39. E adesso alla fine non so se è meglio il caldo o il freddo. Guarda, io ti dico una cosa, il caldo va bene, ma quando è troppo caldo io non lo sopporto. Preferisco il freddo 10.000 volte, se c'è freddo ti tappi, ma se c'è caldo, non che non sei con l'aria condizionata, se no grippi, ci sta troppo male. E poi, oltretutto l'aria condizionata fa anche male. Andava, dai, roba, adesso mi faccio una doccia, che sono tutto sudato. Sì, vabbè, ti sentiamo male dopo, io tengo acceso, sto facendo cosa tanto, se c'è qualcuno, se no rimango in Forex. Ciao, ciao. E via, ciao. Ora, ora, attenzione 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, c'è qualcuno? Attention, Black Italy, Black Italy. Attention please, do you copy Italy, QSL. C'è qualcuno su 10? Canale 10, c'è qualcuno? A me ne andiamo, cazzo! Hola! C'è qualcuno su 10? Ciao Giulio, ci sono io. Oh, ciao, e allora, come va? Ci sono già da un po', una ventina di minuti, ho acceso poco fa, è un attimino è entrato Luca, poi dice se va a fare la doccia, adesso stavo girando un po' il canale, adesso se mi rimetto di nuovo su 10, forse erano tedeschi, però uno sopra l'altro, non si comprendeva nulla, mi hanno fatto entrare, però poi uno sopra modulava l'altro. Ok, vabbè, la propagazione, si sa, è così, non è... quando non è perfetta, di quelle belle pulite, allora non va bene nemmeno, tanto c'è troppo accavallamento. Io ero in ascolto lo stesso, ma ero in 40 metri, stavo ascoltando tutto io. L'altro giorno sono andato ad ascoltare in 40 metri, ogni tanto vado così, ma diciamo bisogna andare sempre in orario un po' più sul tardi, dai, per sentire qualcosa. Beh sì, di solito. No, soprattutto più presto, casomai, perché più tardi in 40 metri non molto. In 80 metri sì, in 80 metri inizia proprio la sera più o meno, verso quest'ora, già va bene. E vabbè, comunque, perché non c'era nessuno il 27, dunque, vabbè, adesso faccio la trovata, però sta quel tempo mi serve andare ad ascoltare. E io ho deciso, beh, visto che non c'è nessuno, passo... era 7.000, quanto era? 7.000, 20, 122 che vale, boh, una cosa del genere, vabbè, non me lo ricordo. Anche io, ma poi ogni tanto ascolto anche le broadcasting, le radio internazionali, quelle che hanno dei segnali da paura. Anche quelli, sì, ma quelli devi andare oltre i 7.000, 7.200, 7.300, sono radio nazionali, dovrebbero essere quelle comunque. Anche giù ci sono anche a 500 kHz, 500, 600, la RAI c'è a 660, a 1000 kHz, poi ci sono a 7000, 9000, 11000, però quelle grosse, quelle a lunga distanza sono giù in basso. Sì, beh certo, sì è vero, no ma in onde medie, boh, la RAI qui non arriva più, prima la sentivo a 500, aspetta, lasciamo ricordare, 580 mi sembra, 585 o qualcosa del genere, e poco non l'ho sentita più. No, già arriva a forte, guarda, 650 e poi c'è a 1000 spiccioli, 1000 qualcosa, però c'è una specie di sdoppiamento, è da parecchio che l'ho notato, da un annetto, si sente? è tipo un effetto vecchio doppiato. Ho capito, sarà magari effetto della sottoparazione probabilmente. No, io in AM, io sto parlando della M, va bene, in FM si sa, piace, ma in AM non riesco più a trovare, vabbè, solo la mattina, la mattina presto, verso le 4, le 5 del mattino, mi metto la radio con le cuffie e in AM se riesco a sentire Radio Easy, Istria, radio oh, dalla, come si chiama, dalla Lombardia, dalla Toscana e dalla Liguria anche. Naturalmente non ti posso dire anche per cosa sono, perché a quell'ora c'è la luce spenta, io sono con le cuffie e non lo so. Con la radio normale, però questo è. No, ma dovrebbe arrivare forte, almeno a me mi arrivava forte la RAI, a 652, adesso non mi ricordo, se altri più secondi non te lo dico con esattezza. Ok, sì, va bene, non è che mi interessi più di tanto, però così, quando non sai cosa fare, allora giri, ascolti. Stavo ascoltando anche il PMR, non c'era un'anima, non c'era un'anima. A PMR, su che frequenza la lista sola? Cosa? Canale 8, dove andate? Canale 7, 446-081, 446-081, canale 7 quello. Aspetta che me lo scrivo, questo così, 446-081, così me lo... Sì, 446-081. Ripeto, 446-081. Sì, ma c'era un periodo, c'era la moda di andare tutti in PMR, ma io, vabbè, rarissimamente ci sono andato. Vabbè, invece è una cosa anche simpatica, perché sai che stai usando un portativino, aspetta il mio, una cosa a 30 euro, mio, un portativino tipo telefonino, non niente di più. Non ne ho io, roba professionale, per cui non ho nemmeno tante pretese, però ho visto che già sento abbastanza. Addirittura l'altro giorno nel VPD ho sentito anche, e ci sono anche adesso, quelli che fanno la vaccinazione, dai, stanno lavorando su quella frequenza lì, del VPD. Su che frequenza sono? 433-075. Naturalmente lì non ci devi entrare, chiaramente. 075. Sì, 433-075. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei, cavaliere Antur. Ciao Antur, tutto bene? Tutto bene, sono ancora vivo. Già lo credo, ma sei teatro, pure la tua età anche. Ti vuole come sì, ti puoi vedere, c'è questa cosa. Nessun effetto comunque, anche nulla. Un rigattolino. Ma leggero, qualche indolizzimento in occhi così, ma non l'ha fatto tutta. Andiamo, che te. Ho detto, ma che c'è cosa a di mare, no? Già fatto me la via, non ho sentito neanche l'ago. Tipo Viagra, anche Viagra liquido. Infatti, oggi ero a manetta. Prendi bombo, la manetta eri. No, ero... No, stavo bene, forse anche meglio. Sì, vabbè, dai. Ti dove tu, non ti preoccupare, c'è problema. Sì, è così. Trovate la frequenza della M o Robe. Aspetta, un secondino, continuate voi, te lo dico con esattezza, parlate voi. Ok. Per controllo, AM, sì, in AM, sì, voglio sapere quello. Così, no, perché io ripeto, mi ricordo che era 580, 565, una cosa del genere. E quando la mettevo, la prendevo subito al primo colpo, senza stare lì a sintonizzare troppo bene. Anche appena spostato di frequenza, lo prendevo lo stesso. E invece qua non intendo più, vabbè, comunque. Avanti, Luca e... Giulio. Ciao Giulio, ciao Roberto di nuovo, Antonio saluta a Sara, a parte di Maria, ti saluto anche a te. A delle grazie. Ciao Luca, avanti Roberto. Giulio, 655 tondi, molto forte sta arrivando. Ok, 655 tondi, adesso me la scrivo, o sia che me lo dimentico. dico, dai, io sto invecchiando, dunque è meglio annotare sempre qualcosina. No, ma poi è bella chiara, pulita, non ha nessun disturbo, perché se vai su 1015, adesso mi ricordo, di lì è un po' non disturbata da altre stazioni, perché il segnale è forte, e da loro sembra quando c'è un effetto eco, non è chiara chiara la modulazione. Ma la frequenza ce l'ho anche io, mi pare. E beh, certo che sì, Antu, ci mancherebbe. Ma questa è la radio normale, Antu. Era sentito nella radio normale, però con questo apparecchio. Con questo apparecchio io andavo a 580 o una cosa del genere, 585, e sentivo benissimo Rai 1, mi sembra che fosse. Qual è Rai 1, Robert, o cos'è, qualche altra radio? No, Rai 1, Rai 1, poi le altre a un certo orario staccano, però ce ne sono tante di stazioni, adesso ci sono le stazioni private, come le stazioni FM private, che trasmettono in AM da Milano, da Roma, da un sacco di parti, qualche volta capita di ricevere, ci sono dando anche bella musica, ce n'è qualcuno anche in stereofonia. Sì, no, ma tante volte, guarda, tante volte anche io vado anche 7300 e sento bella musica, veramente, molto forte, a livello anche di 9.30, 9.40 mio, o robe, no, senza, no, non è che è scarso di segnale, però naturalmente un po' di evanescenza ogni tanto si sente, ma ogni modo la stazione non sparisce mai, c'è sempre presente. Avanti a tu. Cappa, no, invece pure una volta me sono andato, mi arrivava la Russia a cazzo un bel forte, 9.20, una cosa del genere, cioè, quelle frequenze lì, arrivano un bel forte, arrivano. Sì, io tante volte quando non so cosa fare mi metto lì e ascolto, non c'è problema. Io mi ricordo tempo fa, un paio di anni fa, mi sintonizzavo e sentivo anche la radio cronaca delle partite di calcio, naturalmente la lingua un po' che io non capisco, e allora, ma era la curiosità di sentire, di fare, che è né più né meno come trasmettono qua gli italiani, trasmettono anche loro lì, è così uguale, ma è robe. Sì, se colti il canale spagnolo, TVE, il canale nazionale corso, spagnolo, ci sono tipo il calcio, due calcio minuto per minuto, poi c'è il canale francese, si collegano, diciamo, l'ha inventato la RAI, quello tutto il calcio minuto, però lo fanno anche loro, in diretta, anche quando c'erano gli europei, c'erano le partite, io girando così sentivo, non so, giocando la Spagna, la Francia, eccetera, eccetera, qualche partita di mai che non mi interessava vedere la televisione, ho sentito e c'erano. Poi le stazioni più forti sono quelle cinesi, arrivano con segnali spaventosi, a fondo scala mi arrivano qua di sera. La cosa bella che con la Mantova, io l'altro giorno stavo ascoltando due radioamatori, mi sembra che ero in 80 metri, se non sbaglio, uno era a Trento, l'altro era giù vicino a Taranto, e tra di loro uno arrivava per dire 5, l'altro 6, uno mi arrivava più di 9 a me in banda laterale, l'altro era quasi 9, e loro tra di loro erano più bassi, se ne io riuscivo a sentirli più forti di quanto loro con le antenne grosse, dai. Sì, sì, ma è vero, quello, anch'io quando avevo montato la Mantova Turbo sentivo meglio, sentivo, è vero, adesso con questa sento lo stesso, però molto più bassi, per cui, ma non sto parlando delle radio, sto parlando di sempre delle bande radioamatoriali, con la Mantova Turbo sentivo molto, ma molto meglio come segnali, per cui, ma a livello anche di 9.20, anche 9.30, certe stazioni mi arrivavano proprio sparate. Invece adesso con la Game Master massimo mi posso arrivare 7-8, ma quando sono rinforzate anche con il watt, se no intorno ai 4-5, non di più, però sento lo stesso, ma non è adatta, questa l'antenna non è adatta per almeno su quelle frequenze che voglio ascoltare, l'altra è la più indicata, insomma, ecco, adesso non so se dipende dal fatto che l'antenna era messa in un'altra posizione rispetto a dove adesso, questo non te lo so dire, però questa la Game Master per me è più sorda, nel senso che c'è meno QRM, d'accordo, però sento anche di meno, almeno quelle frequenze lì, poi per la 27 si sa, è bellissima, va ultimamente bene, non me lamento. Bene, avanti a tu. K, Rafa, no, io ho provato su quelle frequenze là e mi arrivano sparati, ma sparati veramente, sulle radio, dai. Ok, io vi devo salutare che io vado a mangiare, ci risentiamo. Anche io ti mando ancora un pochettino e poi vado a mangiare anche io. Vai giù, buona cena, se ci siamo magari mi fa piacere parlarci dopo, però non è sicuro, avanti giù. Ok, ciao Anto, ci sentiamo, buona cena allora, dai, ci sentiamo. Vediamo se c'è ancora Luca, ci sei? Sì, io sono quasi, anche adesso. Tutti una maglietta, dai, io vado a cenare, buona cena alla prossima. Ciao Antonio, Roberto e Giulio, ciao. Ehi, ciao Luca, anche a te, buona tutto. Avanti giù. Ok, ciao Luca, ciao. Buona cena anche a te, dai. Ci sentiamo prossimamente. Sì, è così, ripeto. Lo sento lo stesso, però c'è una differenza enorme come intensità di segnale, eccetera, da questa antenna all'altra. Mentre per la 27 è ultima, la verità, no, dal resto la Game Master è stata costruita, è un pezzo di virus, niente di più, è stata costruita appositamente, è tarata proprio per la 27. Poi l'altro tipo di antenna ce l'ho sempre, ma non l'ho più montata, non mi interessa più di tanto, dai, anche se me la tengo, non la do, qualcuno me l'ha chiesta ma non la do. Avanti Roberto. C'è qualcuno che manda la terra? No, te ne dirà, anche io ce l'ho una turbo, quella di Salvatore Maestrale, nuova, perché l'aveva tenuta poco, poi l'aveva smontata, me l'ha regalata a me, prima di partire insieme a quella multibanda, 5 bande, però quella è troppo, flette troppo, infatti nella tolta non mi interessa più. Li metto un dipolo, già me lo vanno dare, adesso ce l'ha un amico, me lo deve dare, un dipolo sì, faceva anche gli 80 metri, vabbè gli 80 metri non mi interessa, lo farò fino ai 40 metri e lo metto sul terrazzo, adesso quando c'ho tempo inizia un po' di fresca che recarlo, devo fare anche altri lavori di lì, così metto anche l'altra direttiva e vediamo un pochettino se la musica cambia da questa postazione. Come sto dicendo, questa è un'altra radio giù. Sì, l'ho sentita, l'altra di prima è la migliore, però anche questa è l'ultima, non c'è problema. Sì, beh certo, anche io sai quante volte mi sono messo in mente, beh adesso mi faccio un dipolo anche per ascoltare quelle bande lì, ma poi alla fin fine ho fatto, ma non sento lo stesso, quella mena tutti, sento ugualmente, per cui non c'ho mai pensato proprio, diciamo, in maniera così decisa, assolutamente no, ma comunque che non mi costa niente prendere 10 metri di filo per dire e fare un dipolo, anche se non è a varie frequenze, basta 1 o 20 metri, anche 10 per ogni braccio e ascolti tranquillamente tutte le frequenze, ma più di tanto non mi è mai interessato dal momento che sento lo stesso. Avanti Roberto. Sì, guardami una cosa, cosa succede facendo questo lavoro, se cambia qualcosa, 1, 2, 3 prova radio, attenzione prova radio. Sì, aumenta un pochino la radio, aumenta. Guarda adesso, aumentata da questa posizione giù, 1, 2, 3 prova radio. Sì, c'è una piccola differenza di radio in più, sì, un pochino più forte, sì. E questo è l'altro tipo di modulazione, 1, 2, 3 prova, ha cambiato qualcosa? Ma non diciamo sensibilmente, diciamo che non è che ci sia questa grande differenza, però sono ultime tutte e tre le prove che hai fatto e non c'è problema. Ripeto, l'ultima che hai fatto era leggermente più forte, ma comunque va benissimo anche quella che hai fatto l'ultima. Va bene, 1, 2, 3 prova, radio, no, stavo provando altre funzioni di questo apparecchietto e vediamo un pochettino, naturalmente non è il 44, questo è un altro tipo di radio. Sì, certo, l'ho visto, l'ho capito, si sente perché ha una amplificazione diversa, dai. Diciamo che è meno amplificata, però è l'ultima, è bella, la radio è bella, piacevole, no? Non c'è problema, va ottimamente bene, è proprio di quelle modulazioni proprio distensive, capito, proprio che fanno piacere ascoltare. Non è da combattimento, ma sento qualcuno ogni tanto, non so se sia qualcuno in mano laterale, vediamo un po', lasciamo un attimo di bianco, vediamo se vuole entrare qualcuno, avanti qua sul canale 10 che vuole entrare. Ah ciao Mirko, ben sentito, hai fatto qualcosa alla radio probabilmente o all'antenna, ti sento molto più forte di prima. Ah no, sei Santiago 9 Radio 5, ti rilancia Giulio se ti ascolta, avanti Giulio. Sì, io sento che sta modulando, però non capisco molto, la radio è molto bassa. io lo ricevo 85-6, però la radio è molto bassa, non so nemmeno chi è. Avanti l'amico, che sì, vediamo se ti sento, se riesco a tirarti fuori aumentando il volume magari. No, guarda, troppo basta, aumenta il volume ma aumenta anche il QRM, dunque siamo sempre nella medesima situazione, no? Troppo basta la radio. Chi è Roberto? Non ho capito nemmeno chi è. No, te sono cambiato radio comunque io adesso, probabilmente arriva un po' di radio un po' più forte. Enrico, comunque ti ha scalottato e ti ha salutato, cioè ti ha ascoltato e ti ha salutato. Lo rilancio di nuovo, Mirko, guarda se mi ascolti meglio o peggio rispetto a prima, ho cambiato radio. Ah, addirittura era meglio prima, pensavo che questa spingesse di più. Non è così, Giuda, a parte tu a spingere di più questa. Questa spinge molto di più. Però ripeto anche l'altra, questa è più da combattimento rispetto all'altra, però anche l'altra ripeto va benissimo, questa è però più forte, più amplificata insomma, ecco, niente di, però è ultima, sia questa che quell'altra, non c'è problema. Chi è l'amico Roberto? Non ho capito chi è, ripetimelo. Mirko di Alghero. Ah, Mirko di Alghero, vabbè, lo sento basso, Santiago sì, però non, alla radio è troppo bassa, non riesco, lui mi sente a me. Hai sentito giù, sei un Santiago di 7 e modulazione 5, chiara. A me quanto, che rapporto mi dai a me invece, Mirko? E anche io ti confermo il segnale tuo di 9, la radio quasi 5, dai. Un pochettino meglio dovreste andare. Giulio, hai sentito, ti ascolta, Santiago 7 e radio chiara 5. Non ci sono problemi. Purtroppo Mirko, lui non riesce a sentirti perché forse c'ha il QRM un po' troppo alto e dice ti sente che stai parlando però non capisce quello che dici. Ma guarda, Giulio c'ha una Game Master, scusa Giulio Monopulio, è una penna semplicissima anche da costruire se uno ha un po' di cognizione di qualcosa, di tecnica, di antenne, riesce a costruirla. E lui sta irradiando con un'antenna di quel genere lì, fatta da lui, e funziona più che bene. Se ti metti la puoi anche costruire. E di nuovo Giulio a te il mic, che poi faremo girare di nuovo per Mirko. Che è? Mirko D'Alghero. Capo, salutoni Mirko, io ti sento qua, Sì, sicuramente guadagni qualcosa. Adesso facciamo riprendere a Giulio, avanti a te Giulio che era in parcheggio, di nuovo a te. Ok, vabbè, sì, continuo a sentire che sta modulando, però la radio è talmente bassa che non riesco a capire ciò che dice, mi dispiace. Purtroppo è così, vabbè, ma comunque dipende anche dalla mia posizione, Mirko, non ti preoccupare più di tanto, perché intanto lo so io che per Alghero non sono in una posizione ottimale, per cui sia in trasmissione che in ricezione ho sempre avuto un po' di problemi, salvo qualcuno che riesco a capire molto bene quando magari hanno un pochino di vatte e l'antenna, e allora il discorso è diverso. Va benissimo così, avanti a tu. Capa, salutoni Mirko di Alghero, mi senti? Kappa, dai. Qua c'è Santiago 4, Radio 5, come arrivo lì ad Alghero? Kappa, dai. No, già riesco a sentirti. Ok, dai, riprendi, vabbè, io riuscendo a mangiare. Ho sentito, ho detto, ma chi è? Ho capito che eri era ad Alghero. Salutoni Mirko, dai, ci risentiamo. Ciao, avanti, vabbè. A dopo, dai. Vabbè, Mirko, ti aspettiamo in condizioni migliori comunque. Vabbè, io sentirò fuori, qua il gelo arriva pulito perché è tutto aperto, se arrivi Santiago di nuovo e qua stai arrivando, per cui non ci sono problemi. Sono sicuro se metti un'antenna più performante arrivi oltre 9.15 qua, perché quelli che spingono dal gelo che hanno una buona antenna arrivano oltre 9.10. Probabilmente anche tu sarai in quelle condizioni al momento che cambierai l'antenna. Di nuovo a te Mirko il mic, che poi farà girare per Giulio. Sì, che così vediamo la differenza. Avanti a te Giulio di nuovo. Ok, il fatto è questo, Roberto, che lui mi arriva a me, Santiago sì, no? E io ho il QRM a Santiago 7, ecco qual è il motivo per cui non riesco a capire bene quello che dice, solo per quel motivo lì. Se fosse stata più pulita la frequenza senza QRM magari sarà pure l'effetto della propagazione che appunto mi impedisce di ascoltarlo, amico. Va bene, dai, intanto io vi saluto, dai, devo scendere giù per cenare e ci sentiamo eventualmente in un altro momento. Ciao Roberto, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo alle prossime. Ciao Mirko, se mi stai ancora ascoltando, io ti saluto, mi dispiace, se ne speriamo di ascoltarci presto e magari in condizioni ancora migliori, così almeno possiamo scambiare direttamente senza il ponte da parte di nessuno. Ok, riprende pure Enrico, ascolto fino a lì, mi farei la ponte tu, Robè, dopodiché chiudo, dopo che mi hai salutato anche tu, avanti Robè, avanti Mirko. Okay, ciao Mirko, anche a te, buon tutto, buon proseguo di serata, saluti da Giulio, ti ha ascoltato, comunque non c'è problema Giulio, ti ha sentito, e anche a te buona carica e buon tutto, io rimango qualche minutino qua acceso che anche io vado a mangiare tra poco, dai, ciao a tutti e buon proseguo di serata, ciao ciao. Ok, ciao di nuovo Robè, alla prossima, ciao. Hola, attenzione 10. Robè! Robè! Dimmi a tu! Eccomi, sono arrivato! Vabbè, avevo già chiuso. Vabbè, allora devo andare a mangiare anche io adesso. Dai. Ma dopo, se coincide, ci sentiamo, non è sicuro, però eventualmente ci sentiamo. Ciao ciao! Capo, lascio un po' acceso, lo lascio. Cazzo, pure Alghero arriva, te immaginetti. Certo che arriva, perché non deve arrivare? Capa, ma l'ho già sentito, l'avevo questo Mirko. Arriva con Alghero stesso. Allora, ha detto che arriva Santiago 7, non è poco, no? Sì, sì, circa 7 arrivavi. E anche Giulio più o meno quel segnale lì, considerando dove sei, stai andando alla grave. Sono più distante. Dai, ti lascio tanto, ciao ciao. Ciao ciao. Chi è avanti? È aperto.